la morte esiste. Ogni giorno ci circonda e la vediamo in televisione, sui giornali, nella strada. Si guarda sempre gli altri. Ci spaventa, ci dispiace, ci sconvolge, ci sgomenta. Ma è parte della vita, lo sappiamo.